l'inglese perché mi manca, manca le parole. I just want to just see, I just go through the names. Okay. Valeria, Valeria, Giuliana, Elina, Giovanni, Silvio, Rocco, Laura, Ernesto, Silvana, ciao, Natalia, Chiara, Gabriella, Ima. She's coming tomorrow. Oh, is she? Maggie. And Maggie says she was watching. Yeah, well, they've worked with me before, so. Luisella. Lila or Laila? Laila? Laila. Laila. Roberto. Andrea. Gian Domenico, Gauta. So I think Teresanna. So all, I think only two or three have worked with me before. How many have worked with me before? Quanti hanno già lavorato con Dante? Ah, okay. With my memory. How many people are very new to Buddhism? Quante persone sono completamente nuove al buddismo? Sì, così così. So, did you and So this is just an opening ceremony, and I'll explain it for people who haven't done this before. Questa è una cerimonia di apertura e lo spiego solo per le persone che non l'hanno mai fatto prima. So first of all, the sila, regole di condotta. Innanzitutto sila, le regole di condotta. So these tell us what we shouldn't be doing. Quindi queste regole ci dicono quello che non dovremmo fare. So the first one is, we must stop killing each other. Quindi la prima è dobbiamo smettere di ucciderci, di ammazzarci. And stealing from each other. E rubare gli uni agli altri, gli uni dagli altri. Here we must abandon all joys of erotic and romantic delight. Il testo riguarda l'abbandonare ogni gioia o delizia riguardo all'erotismo, diciamo, al sesso. Al romantico. Al romanticismo. Ah, oh yeah, okay. although this is very difficult, we need all the energy we can get to do this sort of work. Anche se questo può essere difficile, abbiamo bisogno di tutta l'energia possibile per fare questo tipo di lavoro. So not to use speech incorrectly, that's easy because we keep the silence. Questo lo successivo è di non usare in maniera non corretta la parola, e questo è facile perché ci sarà silenzio. Yes, be careful of coffee and even strong tea. Per quanto riguarda la regola successiva, attenzione al caffè e anche al tè molto forte. No, because it makes the mind run, no? Perché fa correre la mente. Yes, we don't take a meal after lunch. Non prendiamo un pasto dopo pranzo. Yes. Non assumiamo cibo. Yes. And for those of you who've never fasted, rest assured that not eating for 10 hours or even 15 hours will not cause sudden death. Coloro i quali non hanno mai digiunato, state pure tranquilli che il fatto di non mangiare per 10 o anche 15 ore consecutive non vi procurerà la morte improvvisa. So, not to sleep more than necessary. Quella dopo è di non dormire più del necessario. So usually when people come on retreat, they come with some sleep imbalance. Spesso quando le persone vengono al ritiro arrivano già con un certo squilibrio riguardo al sonno. Yeah, either they're sleeping too much or they're not sleeping well enough. O dormono troppo oppure non dormono abbastanza bene. So for those of you staying a weekend, it's difficult to distinguish between true tiredness and lethargy. Quelli che fanno solo un weekend gli sarà difficile distinguere tra la vera stanchezza o uno stato di letargia. Si dice di pigrizia. But after three or four days, those of you who are staying longer, then of course new energy arises, a cleaner energy. Ma per quelli che stanno più a lungo, dai tre giorni in su, diciamo, vedrete che avrete un nuovo tipo di energia, un'energia più pulita. Yeah. Inwardly more ecological. Internamente sarà più ecologica. Not to indulge in entertainment, this is important. Quello dopo è importante, di non lasciarsi andare ai divertimenti, non indulgere ai divertimenti. Yeah. Reading and writing. Leggere, scrivere. If you keep a little diary at the end of the day, that's not a problem. Se tenete un piccolo diario, diciamo, alla fine della giornata, quello va bene, non è importante. If it moves towards an autobiographical bestseller, then something is wrong. Se però poi diventa un bestseller autobiografico, allora dice qualcosa che non va. Let's indulge in. Oh yes, we don't have to worry whether we are beautiful or not. E qui non dobbiamo preoccuparci se siamo belli oppure no. What a relief. Che sollievo. And respect the noble silence, you see. Poi l'ultima regola è il rispetto del nobile silenzio. So silence here doesn't mean just speaking to each other, it also means not looking at each other, you see. Quindi qui il silenzio non significa solo non parlarsi, ma anche non guardarsi. Because when your eyes meet with somebody, then of course you beckon a response, that is a communication. Perché quando incrociate lo sguardo di un'altra persona è come se inducesse, diciamo, una forma di comunicazione, una risposta dall'altro. So all these rules are really about turning inward, you see. Tutte queste regole riguardano proprio il fatto di guardare verso l'interno, verso dentro di noi, svolgere lo sguardo dentro. And that's why we have this schedule, you see. Ed è per questo che abbiamo l'orario. Because the schedule gives you your rhythm and your discipline. L'orario vi dà un certo ritmo e una disciplina. So whether you like it or not, whether the body wants to or not, whether the heart wants to or not, or the mind wants to or not. There is sitting, there is walking, there is sitting, walking. Quindi che vi piaccia o no, o che il vostro cuore o la vostra mente voglia oppure no, comunque c'è questa alternanza di sedersi, camminare, eccetera. Those of you who are doing the bell ringing. Sì, per coloro che suonano la campana. Yeah, be diligent about that, because people rely upon your bell, you see. Quindi siate diligenti a questo riguardo, perché le persone dipendono dalla campana. Especially the great compassionate one who rings the first bell in the morning. Soprattutto la persona di grande compassione che suona la prima campana del mattino. And the lesser compassionate one that brings us back after lunch. È quello un po' meno compassionevole che ci riporta in sala dopo il pranzo. Yes. So now the puja means ceremony, blessing. Quindi puja significa cerimonia o benedizione. So bowing is just a very strong body language for surrender. Quindi l'inchinarsi è un linguaggio del corpo molto forte che significa la resa, l'arrendersi. Of course you don't have to do this, you do what you wish to do, but when people bow, one of the reasons is to surrender to the Dharma, you see. Quindi ovviamente non dovete per forza farlo, però il significato di questo inchino è proprio un arrendersi al Dhamma. Because the spiritual life more often than not asks you to do what you don't want to do. Perché il più delle volte la vita spirituale vi chiede di fare ciò che voi non vorreste fare. Buddham pujemi, Dhammam pujemi, Sangham pujemi. Sì. You pronounce the Pali just like Italian. Ecco, quindi ho ripetuto queste tre omaggi, diciamo così, al Buddha, al Dhamma e al Sangha, e si pronunciano così nella lingua Pali, proprio così come li vedete scritti. Open vowel. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. So this is recognizing the Buddha as the teacher for this weekend or for the week, you see. Ecco, poi ci sono gli omaggi, appunto, di Vandana, ha detto il primo, questo è riconoscere il Buddha come il nostro insegnante, il nostro maestro per questo weekend. So for this length of time, this is where our trust lies, our confidence. Per questo periodo di tempo è lì che noi poniamo la nostra fiducia, la nostra fede. So then we say, we go to, you know, Buddhan Sanangachami. This is going to refuge, you see. E poi andiamo, prendiamo il rifugio, il Buddha, Dhamma e Sangha. So three times, tutti ampi, tati ampi. Yeah? E questo per tre volte. Quindi tutti ampi e poi tati ampi. Yeah. Now if you turn the page. Girate dall'altra parte. So these verses tell us what it is that we are investigating. Allora, questi versi di Vipassana ci dicono che cos'è che stiamo ricercando, stiamo investigando. Yeah. And the last few phrases are taken from the Buddha, sayings from the Buddha. E le ultime frasi sono dei detti, delle citazioni del Buddha. Yeah. And then oh, we don't say sadhu. Then at the end we missed it out. We say sadhu, sadhu, sadhu. E poi alla fine ripeteremo tre volte sadhu, sadhu, sadhu, che non c'è scritto. And before we say that, I shall ask you to make a firm determination to stay to the end of the course that you've determined. E quindi prima di pronunciare questo tre volte sadhu, vi chiederò di prendere l'impegno con voi stessi di rimanere fino alla fine del periodo che voi avete stabilito di restare qui a ritiro. The quality of persistence is very important. Che è molto importante questa qualità dell'essere costanti, della persistenza. Yeah. Essere perseveranti. Yes, perseverance. So this evening we will do this little opening ceremony. Quindi stasera faremo questa cerimonia di apertura. Then we shall do a standing meditation. Poi faremo una meditazione in piedi. And then a sitting meditation. Poi una seduta. We'll try to do a walking meditation together. E poi cercheremo di fare una meditazione camminata insieme. And then we end with a metta, loving kindness meditation. E poi termineremo con la metta, che è una meditazione sulla gentilezza amorevole. Yeah. So that in one evening you know everything. Così che la prima sera saprete già tutto. I can go on holiday. Io posso andare in vacanza. Okay, so join in as you would, as you wish to join in. Quindi unitevi alla questa cerimonia così come vi sentite di partecipare. A flame is a very universal spiritual symbol. La fiamma è un simbolo spirituale molto universale. The light is the path of understanding. Perché la luce è il sentiero della comprensione. And the warmth is the path of love. E il calore è il sentiero dell'amore. And the action of the flame is the path of good works. E l'azione della fiamma è il sentiero delle buone azioni. When all these three come together, you have illumination. Quando tutte e tre queste cose vengono insieme, si uniscono, allora si ha l'illuminazione. Very good. So. Gianni just wanted to check. Gentilmente buttiamo fuori una zecca che voleva partecipare alla cerimonia. Mi impegno a tenermi da un comportamento